kamu ini loh, bareng New Palapa. prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Donna, donna, don, prima donna desa. Di taman satu.